al tour con Ivan Basso. Appuntamento con il Tour de France di Ivan Basso in esclusiva su Radio 24. Oggi quarta tappa con arrivo a Mur de Bretagne e si sono viste le grandi firme di questo tour. Vince Cadel Evans al photo finish su Alberto Contador. Ivan, ben ritrovato. Allora, insomma, questo Contador, tutti a darlo in crisi, tutti a darlo per finito e quasi quasi piazza il colpaccio, eh? Ma io nessuno l'ha dato per finito, io credo che personalmente noi lo teniamo comunque come il grande favorito di questo tour, è un grande campione, è un atleta che ha vinto il Giro poche settimane fa e quindi è ancora chiaramente in gioco per la vittoria finale. Si è visto anche un grande Cadel Evans che forse tra i favoriti, tra voi favoriti, è quello che in questi primissimi giorni sta pedalando meglio, no? Condividi questa impressione? Sì, Cadel è un grande campione, è partito fortissimo in questo tour, ha fatto un'ottima cronasquadre, è andato benissimo nel primo arrivo, nella prima tappa, è fortissimo oggi. Ecco, questo chiaramente dimostra che lui è uno dei favoriti per la vittoria finale, però io credo che ci sono comunque corridori che magari fino adesso non si sono visti, però nella seconda e terza settimana, se qui ci sono pochi secondi di ritardo, nella seconda e terza settimana possono diventare minuti, quindi bisogna così aspettare, il tour è ancora molto lungo e duro soprattutto. Intanto il Mur de Bretagne è messo alle spalle, no? Lo temevi particolarmente perché questo arrivo con questa salita progressiva per te poteva essere difficile? Sono percorsi non difficilissimi dal punto di vista altimetrico, ma molto difficili per la gestione della corsa, la mia squadra deve lavorare tantissimo per tenermi davanti e anche oggi sono stati molto bravi, io mi sono difeso bene nel muro finale, quindi la consideriamo una giornata positiva. Ancora deve arrivare il grande caldo al tour, oggi è arrivata anche la prima pioggia, no? Per carità, uno ci fa l'abitudine, però se si può evitare è meglio, no? Ma sicuramente non, la pioggia è fastidiosa qui al tour principalmente per i pericoli che aumentano, perché c'è grande agonismo nei primi giorni, con la pioggia i rischi aumentano. Domani tappa per velocisti, sulla carta è facile, però andrete a 60 di media, si farà una fatica del diavolo che poi nelle gambe si sentirà, eh? Sì, tappe facili non ce ne sono al tour, io credo che ogni giorno bisogna correre davanti perché comunque, come ho detto, c'è grande agonismo e ci sono tutte le squadre che vogliono fare bene, giustamente, quindi noi dobbiamo assolutamente continuare a correre con questa mentalità, chiaramente da questo fine settimana dove cominceranno le tappe del Massiccio Centrale, quindi un po' di salita per preparare poi il secondo weekend che a mio parere sarà quello che darà il primo segnale importante per la classifica finale. E allora Ivan Basso, intanto grazie, ti aspettiamo domani sempre qui a Radio 24 in esclusiva dopo il traguardo del Tour de France. Grazie, buona serata a tutti.